Italia in controluce. Buon pomeriggio da Daniele Biacchesi, questa è la seconda edizione di Italia in controluce, il programma di Radio 24 che racconta la cronaca italiana. Domani alla Lamezia Terme inizia Trame, le letterature contro le mafie, un festival che raccoglie le nuove voci contro le mafie. Così abbiamo deciso da ieri di raccontare per tutta la settimana Italia in controluce quali sono i personaggi, gli interpreti e soprattutto gli scrittori. Jacopo Matano ha intervistato Lucio Musolino, giornalista, scrittore da mesi nel mirino dell''Ndrangheta, 28 anni, ex redattore di Calabria Ora, era stato licenziato per aver scritto che in un'intercettazione di un clan compariva il nome del governatore della Calabria Scopelliti. Lucio Musolino collabora oggi dalla Calabria con il Fatto Quotidiano e con il TG di La Sette. Collaboro con il Fatto Quotidiano e con il TG di La Sette. E presto con il settimanale del Corriere della Calabria, che venerdì andrà per la prima volta in edicola. E la mia storia, io ripeto sempre che non è la storia solo di Lucio Musolino, ma è la storia di un gruppo che a un certo punto non è stato più messo in condizioni di poter lavorare. Che è il gruppo di redattori di Calabria Ora, giornale per il quale tu lavoravi. Cosa è successo? Praticamente il 19 luglio dell'anno scorso il direttore Paolo Pollichieni si è dimesso e con lui si sono dimessi altri 8 colleghi, i capi redattori e tutti i capi servizi. Io all'epoca sono rimasto, ma dopo una settimana è arrivata l'intimidazione, cioè qualcuno ha lasciato fuori dal mio cortile una bottiglia di benzina con delle minacce. Di che cosa vi stavate occupando in quel momento? Con i colleghi di Calabria Ora avevamo pubblicato da circa un mese un'informativa di un'inchiesta che aveva portato a 42 arresti. L'inchiesta era l'inchiesta meta della DDA di Reggio Calabria, che aveva stroncato il gota dell''Ndrangheta regina, ma anche una serie di imprenditori ritenuti vicino alle cosche mafiose. Abbiamo pubblicato stralci di un'informativa del Rosso che riguardava i rapporti tra l''Ndrangheta e la politica. C'era scritto che l'ex sindaco di Reggio, oggi governatore, Giuseppe Scopelliti, aveva partecipato a un pranzo con il boss Cosimo Alvaro, a un pranzo, una cerimonia, ed erano comparse anche alcune intercettazioni relative ad alcuni consiglieri comunali. Quegli altri sono stati pubblicati solo da Calabria Ora, in Calabria, e dal Fatto Quotidiano. Abbiamo semplicemente riportato atti giudiziari. Tu non metti in relazione direttamente quello che ti è successo, quello che è successo al tuo giornale, con gli atti che sono stati pubblicati. Quello spetta agli inquirenti. Io prendo atto che prima io mi stavo occupando di quello. Successivamente a quell'intimidazione, all'interno del mio ex giornale non mi è stato più consentito di pubblicare determinate notizie. Intanto era arrivato il nuovo direttore Piero Sansonetti. Sarà un caso, però la parte relativa all'inchiesta meta sui rapporti tra 'Ndrangheta e politica non è stata più scritta. Io mi rifaccio all'editoriale di addio del mio ex direttore Pollichieni. Lui l'ultima cosa che ha scritto è che non è stato più possibile garantire la libertà dei suoi giornalisti. Sull'episodio che voi avete riportato c'è stata ovviamente la smentita del governatore della regione Calabria, che tra l'altro ti ha querelato per diffamazione. Si sente diffamato perché io ho riferito dell'indagine meta, ho riferito del contenuto di un'informativa scritta dai carabinieri, non l'ha scritta certamente un giornalista comunista, non l'ha scritta qualcuno che doveva fare un attacco politico, l'hanno scritto i carabinieri. È stato detto che il tuo caso, il vostro caso, siano un esempio di come in Calabria qualsiasi giornalismo vero è un giornalismo che dà fastidio. Contemporaneamente però il nuovo direttore di Calabria Ora, che poi è il giornalista Piero Sansonetti, ha detto che tu sei un forcaiolo. Purtroppo ritengo che la Calabria sia una regione particolare dove il garantismo forse bisognerebbe lasciarlo un po' da parte, perché qua ci sono solo due squadre, l''Ndrangheta e lo Stato, e preferisco stare certamente dalla parte dello Stato, anche se a volte vengo tacciato per giustizialista o vengo tacciato per un forcaiolo. Tu stai dalla parte dello Stato, ma senti che lo Stato sta dalla parte tua? Io non posso che ringraziare il procuratore Pignatone, ma anche il questore Casabuona e il capo della squadra mobile Renato Cortese, perché l'indomani della mia intimidazione hanno disposto una vigilanza dinamica

Italia in Controluce, seconda edizione. Cercateci tutti i giorni su Facebook, Twitter oppure la nostra mail controluceradio24.it. Domani torniamo 6:30 con il reportage di Raffaella Calanda sulla base leghista a Pontida.